Carabinieri, andala! Sì, carabinieri di Portobello. E allora, cosa stai facendo? Nulla, stavo chiamando Manuele. Dove se c'era, e basta. C'è un vento caldo, allucinante, d'ora, rottura di balle. Già l'ho visto, ci hai visto, sentito, perché altro. Oggi mi sono fatto quasi 2.5 di fianco da quell'animale del medico, che... Poi è venuta una ragazza vestita alla spiaggia. Anche mia moglie c'era ieri. Dottore Balla, sto medico, mascherine, entrare uno a uno, solo il medico, a tutte le parti è così, cosa? Un casino e bue. Ma vabbè. Ci avesse gente sul canale 10, vedo lo smitter muoversi. Aspetta un attimo, Antone, dai, che vado a sistemarmi. Ero sdraiato, cazzo, mi fa male tutto il collo. Neanche io ero mezzo, cioè, mezzo addormentato. Mi ha svegliato Giovanna poco fa. Ma stasera vado a, come si chiama, a farmi un assaggio lì a fianco alla coppa, per capire come si mangia. Ah, 140 grammi. E già si mangia bene. Vai, no, io no, questi posti così non è che in questo momento non è che ci vada molto, no, non mi interessa, non si sa mai, meglio mangiare a casa, meno rischio c'è. Dai, ci sentiamo tra un attimo, aspetta. Io d'accordo. Ma tu spegni le luci quando esci dalla galleria? Ma che le devi tenere sempre accese? Non ho capito. Ma le luci della macchina le devi tenere accese? Però non ti vanno dietro le luci. Com'è che quando entri in galleria te le vedi accese? Sono accese davanti. Ma prima non le avevi accese, le hai accese in galleria quando te l'ho detto. E adesso, oh, sembrano spente, eh. Adesso sono spente le luci, non sono accese. Sono spente, non mi sembrano accese. Prova a girare il commutatore delle luci, scusa. Adesso sono accese, ma... Adesso sono accese, sì. Sì, è di qua, ma è dritta. Claudio. E allora? Ma tu non hai sentito là? No, negativo, per niente. Nulla, ci siamo sentiti stamattina, i soliti messaggi. E infatti lo stavo chiamando poco fa qua, ma non c'era nessuno. Come aveva detto che entrava a pomeriggio perché era di riposo, oggi e domani pure. Ah, e allora si poteva organizzare qualcosa. Vabbè, pazienza oramai. Ormai mi sono organizzato a casa. Vabbè. No, stavo ascoltando, controlli, no? Una giovana di sta controllando i show. Ascoltami, un'altra cosa, ma mi stavi dicendo di sabato, perché cosa dobbiamo fare sabato? Fammi memoria, cazzo, non me ricordo io. Mettere lì quella roba lì, o mettere il plasticone, non so se vuole togliere le onduline o metterli qualcosa per non gocciolare l'acqua dentro. Chi avesse si è organizzato, non lo so, io infatti volevo sentire quello, perché sennò io venerdì sera me ne vado in campagna, capito? C'è caldo, si sta bene, c'è ancora la piscina aperta, non l'hanno chiusa ancora, mio genero, quindi me ne sto venerdì, sabato e domenica me ne vado in campagna, a meno che lui non voglia fare quella cosa lì sabato mattina, capito? Ma sabato mattina è boh, però non ha giuiltà tutta la rinchivia, eh? Si va presto al fresco, si fa, poi io me ne vado, non ci rimango a pranzo. Perché a lui conviene approfittare adesso che sta facendo una bella giornata ancora. Dopo che inizia l'inverno è un casino bruppio, paeddu, Io gliel'ho detto, adesso deve fare lui, Manuel, se vuole trascorrere un inverno un po' più sereno, più tranquillo, capito? Perché con la veranda, cazzo, vale ancora brutto. Quindi si tappano quei buchi di rondolina, si mette il coso, la guaina liquida e basta, poi quando deciderà si cambierà tutto, ma per il momento metterla in sicurezza. Appunto, infatti lì quando piove non può neanche uscire, per dire, non può neanche rimanere in quel terrazzo, perché è come che senza tettoia. Infatti io non l'ho vista, com'è? Me l'avevi detto tu il giorno che abbiamo montato l'antenna, però non l'ho vista, non... capito? Lì bisogna vedere com'è. Comunque, io ti ripeto, nella casetta attrezzi di campagna ho risolto così, però non c'era quel tipo di ondulina, c'era quella plastificata, dal caldo al freddo c'era qualche riga di spaccatura, gli ho dato la guaina liquida dello stesso colore, rossa, non è più entrata acqua assolutamente. Capito? Cioè, ho evitato di cambiarla perché era abbastanza in ordine, e che sicuramente, siccome rimane sotto dei rami d'albero, quindi magari con i rami che calano d'inverno eccetera, insomma, ci sono anche le pigne, un albero di pino, e quindi l'hanno un po' spaccata. Io ho messo quella guaina ed è perfetta. Allora, io gli stavo dicendo, si mette quelle onduline che sembrano tegole, non so se le hai mai viste, praticamente si levano quelle lì, si mettono quelle là che sono da 2 per 1,50 m dovrebbero essere, ma ci sono anche più larghe, si mettono quelle lì, o cambia dove rientra l'acqua, non lo so se vuole cambiarle tutte o se no cambia quelle dove sono vuote, l'importante è che non rientra l'acqua. Quelle vengono, allora, 5 sì onduline di quelle, le sono venute a uno che le ha prese, 120 euro, 5 onduline di quelle lì. Ho capito, Manuel, però cazzo, già sei in una cifra molto alta. Lui prima deve vedere se riesce a farsi riscontare, perché se io faccio una spesa e tu poi non me la sconti, cazzo, cioè, a me non mi interessa. A quel punto lì io mi compro 20 euro di guaina liquida e me lo faccio, e t'arrangi, perché cazzo, se io ti faccio il lavoro me lo devi pagare, capito, Manuel? Quello che ha detto lui, per cambiare quelle cose lì e per fare quel lavoro deve chiedere il permesso al padrone di casa. Invece mettere un po' di guaina liquida non deve chiedere permesso a nessuno, te lo stai riparando per te, basta. Ma la guaina non va bene, non basta la guaina, è proprio spaccata la tegola, è proprio a pezzi, è proprio, non è sfilata, capito? Se era sfilata si poteva mettere la guaina, si poteva mettere anche della buiacca di cemento, fare un po' di buiacca di cemento e saldarglielo così, ma siccome è tutta spaccata la tegola, l'ho vista anche io, la termite. Allora deve decidere, deve vedere cosa fare, capito? Perché non lo so, bisogna sentire a lui cosa fare, se ha parlato con Vittorio, se deve fare il lavoro completo, perché se compareggia la guaina non va bene. La mia, ti ho detto, non era termite, era quell'ondulina plastificata rossa, diciamo disegno finta tegola, dai. E quindi la guaina attaccava bene, gli ho dato prima una bella pulita e poi ha attaccato bene, quindi bisogna vedere. Lì per fare una bella cosa deve togliere dove sono spaccati, dove li perde l'acqua, li cambierà l'ondulino. Non le cambia tutte, le cambia quelle dove li scende l'acqua. Ma mi sa che sono tutte da cambiare, perché dice che si riempie l'acqua da tutte le parti quando piove. Ehi, ehi, va bene, va bene. Non lo so, Manuele, lui non è a casa sua, se fosse stata a casa sua avremmo fatto un capolavoro lì, però non può fare lavoro e poi cazzo rimane al padrone di casa, non tieni bagaburo, cioè così è a prendere in giro. Deve sentire a Vittorio, sia Maria, se glielo fa fare e se lo fa scontare anche in due, tre volte, però l'importante è che recuperi i quattrini. Se no, cazzo, lui fa il lavoro e poi rimane dall'altri, non va bene così. È così, infatti, sono così, cazzo, più un anno è più, cazzo, è più chiuso. Infatti l'ho detto, ti faccio il lavoro, non ti dico niente, ti faccio il lavoro e ti scalo ogni mese la cifra che ho speso. Non che li deve scalare tutti in un mese. Quanto paga l'affitto? 300, quanto ho speso? 400 euro? Ok, per fare tutto il lavoro fatto bene, me li scali 100 euro al mese, anziché dartene 300 te ne do 200, però me li recupero così, capito? Così deve dirle a lui, a loro, se no penso che non li votia. I 400 euro paga di affitto mio, Ocla, paga 400 euro. Se paga 400 euro, capito? In due o tre volte, non lo so, si mette d'accordo, 200 e 200, però deve recuperare i soldi, se no ti ripeto, fa il lavoro e rimane al padrone di casa, non va bene così. Appunto, appunto, lui deve fare qualcosa, perché se non fa nulla questo inverno vedrai le varie fasi e non pulisci manco in terrazzo, manco a pigliare un attrezzo, può pigliare. A chi la testa deve dire tutti in fura e dopo rientra anche l'acqua negli armadi. Lo so. Ascolta, invece io devo mettere un tappo in facciata, quindi primo piano, secondo piano e mezzo, dove c'è la finestra della cucina. Devo mettere il tappo perché lì all'interno io c'ho la ventola, una ventola, oltre alla cucina c'è una ventola per gli odori eccetera. L'altro giorno che ha fatto molta acqua, cazzo mi è entrata, mi si è inumidito all'interno, capito? Sotto la ventola, ok? Siccome all'altra parte è vuoto, allora devo mettere un tappo di quelli, non un tappo chiuso, è un tappo di quelli che però non fanno entrare l'acqua col silicone. Chi è che di noi ha la scala, quella sono quelle pieghevoli allungabili, quindi sono 2 metri, 2,5 metri e sui 3 metri. Quella lì non lo so, Tonino non ce l'ha, non ce l'ha Tonino quella. Non lo so se ce l'ha nuova, buona, non quella, quel cesso che abbiamo usato l'altra volta. Noi c'è una scala, devo salire a 3 metri, la volta che gira a terra. Se ci arrivo devo mettere il silicone nel tappo, tic, e attaccarglielo, capito? In modo che quando piove non mi entra l'acqua, perché quando c'è vento forte in facciata, lì ho visto che mi fa una macchia, quindi ho tolto la ventola, è entrato la mano ed era umido, quindi lì acqua non deve entrare. Quello va sigillato bene col silicone, sì. Non lo so se ce l'ha sinceramente, Ocla. Non lo so. Si chiede se ce l'ha. Vabbè, quella è una cosa che devo fare io, ma è una stronzata. Mi ci metto più a appoggiare la scala che a mettere il tappo, capito? Io ce l'avevo di un amico, una scala ma veramente eccezionale. Se l'ha presa, se l'ha portata via e non gliene voglio chiedere. Capito, non gliene voglio chiedere, ma è varata a tenerla addirittura io, tienila tu, quando mi serve te la chiedo, invece me l'ha domandata, dice la puttana e non me ne ha dato più. Vabbè, a me serviva a volte per fare i lavori sulle antenne, capito? E niente, non lo so, adesso provo a chiedere a Tonino se ce l'ha. Prova a chiedere a lui, magari ce l'avrà, se non ce l'avrà lui, non so se conosce qualcuno lui che ce l'abbia. E beh, Casarella. E beh, Lu, tu non ce l'hai una scala da 3 metri di quelle pieghevoli, no? Certo che ce l'ho, ma è mia. Vabbè, ma a me me la devi prestare mezz'ora, mi. Devo attaccare un tappo, se no ve ne due l'attacchi due, c'è il bioascio. Sì, diciamo, sempre quella famosa mi hai invitato tu, 4 metri. Quella pieghevole? Sì, si apre in due. Ah, in due era, in due. Quella è ottima, Lu. Quella è ottima. No, devo mettere il tappo della ventola, di quelle ventole che ci sono da cucina, il tappo in facciata devo mettere, perché l'altra volta mi è entrata acqua. Ma a quanto sto a mettere la scala è già fatto, ho capito. Vieni e te la piglia, chiuso qua a piedi. Beh certo, non me la butti tu, no. Ma dove ce l'hai, da tua madre? Eia! Vabbè, ci mettiamo d'accordo, ti chiamo. Liberati, vengo a prendere a te. Lo facciamo 10 minuti, dobbiamo essere in due. Cazzo, guarda che me la mantiene il carro. Tanto devo prendere il silicone, che non ne ho. Prendo un tubetto di silicone e poi ti chiamo. Vengo a prenderti e poi ti riaccompagno. Oh, al limite, vengo con te e poi mi ne vado a piedi con la cara. Cazzo, non basta altro manzano, sono andato a piazzare un'antenna. Mi sono fatto via Marchinotti a piedi. Come si dice, con due borse piene, cavi, trappano, punte, cosa meno, va più di più, di tutto di più. Io mi sono un po' attrezzato, no? Ma se non tu bisava. No, lui, il cazzo sì, è sì, proprio un cane randaggio. No, io vengo a prenderti perché, tra l'altro, tu mi sembra che sei un po' più leggero di me, non lo so. E sei anche più alto, quindi se io devo salire per dire a 5 gradini, tu sali a 3. Con la mano stesso, mi facciata, metti il tappo e te ne vai, basta, ci vuole 5 minuti, capito? Però è meglio essere in due per mantenere la scala. Eia, quando vuoi, dai. Allora, domani sono un po' impegnato, che domani devo andare a cambiare le gomme alla macchina e poi devo fare un sacco di cose, andare dal medico, farmi fare l'impegnativa per farmi la panoramica, che me l'ha chiesto il dentista. E poi vabbè, ho dei lavoretti da fare, Cla. Domani non ce la faccio, se non è fretta. No, non è fretta, no, già non piove, non è un problema quello. Poi ci deve essere il vento di facciata, non ha un problema, l'importante è sapere chi ha la scala, capito? In modo che se cambia il tempo ti avviso e vengo a prenderti, 5 minuti lo facciamo, non ti preoccupare. Vai sereno che non ce n'è fretta. Vabbè dai, lui ragazzi, sono stanco. Come se avevo sciumene andata la gabbisturia, mamma mia. Mi sono levato anche la maglietta, ero triccia driccia. Vabbè, comunque dai, una signora poverina, la disperata, perché vive sola. Praticamente gli facciamo la scansione con l'antenna sua. Proprio l'antenna sua non aveva, non veniva più. Solo il capo c'era. Facciamo la scansione, mi dava da 4, 5, Italia 1. E poi la spegnevo, lo riaccendevo e dovevi fare dopo la scansione. Così no. E gliel'hai messa apposta, gli hai cambiato l'antenna e tutto. Tutto, vede tutto adesso, vede, prende 370 canali mi pare. E quelli sono, non è che anche il mio, lo Smart TV è intorno ai 400 canali. Che prende, in Biglia Bogu, prende anche quelli francesi. Va bene, va bene. Non c'è problema, dai, appena... Adesso intanto compro il silicone, mi tengo pronto, il tappo l'ho già comprato, della misura sua, lo devo solo provare, ma lo provo dall'interno, capito? E niente, e poi siamo a posto, dai. Ti avviso, 10 minuti lo facciamo, aspetta il telefono. Aspetta, ma non è che devo telefonare un attimino a mio cognato per lavoro, già riprendo subito, ok? Vai tranquillo, Qua sono, Manuè. Ehi, scusa che devo fare una telefonata a mio cognato e domani mattina devo scendere a Predanieta con lui, ma come al solito mi tocca andare a Giura, vabbè, non è un problema. E quindi sentite la Tonino nel frattempo, no? No, non l'ho chiamato, ma evidentemente deve farmi qualche cosa. Claro, o è dormito o è in giro. O è fendimobili, oramai si è specializzato. Sì, via. Uia. Ehi, vera dai, chi la sa che palline ci fa qualche mobiletto. Se lo sapevo già l'avrei comprata la scrivania per il computer, cazzo. Me l'avrei fatta fare da lui. No, lavora molto bene il legno, veramente. Lo sa lavorare, dai. Ah, già, cazzo, attrezzatura c'era, che fa anche gli angoli a 45 gradi pure, già c'ha una bella macchina, dai. Cosa, Manuel, che tratta mia moglie, mi ha disturbato le orecchie. Ha detto che già ce l'ha una bella macchina da taglio, sia da 45 gradi in tutto. Il mobile te lo fa sì con quella macchina lì. No, ma ho visto che c'è anche manualità. Anche manualità, stucca bene il legno, dove mettere i viti, cioè c'è manualità, dai. Io non c'ho grande passione sulla lavorazione del legno, ma mi piace fare altro. Ma proprio il legno, no? Anche, vabbè, forse perché non hai l'attrezzatura, lui ce l'ha, capito? Sì, a voglia. Sa che gli manca qualche viti, Oh, Cla, come mi sta arrivando un flusciato? Saranno i problemi tuoi. Se sei col gommino, lui, secondo come lo muovi, il cattivo c'ho 50 watt, non è che poi ci frusciato. Un gommino per giù, infiato nelle chiappe. Perché anch'io a volte ti perdo. Nonostante abbi l'antenna a 40 metri d'altezza, ti perdo. A volte manchi il radio, quindi è un problema tuo. Tu bene mi ascolti, Manuel? Cazzo, e mi dici se ti intendo bene. E come ti sei roghi? Vabbè, adesso con questa posizione non posso stare sdraiato, sono sdraiato nel divano. Adesso ti ascolto bene, bene mi ascolti adesso tu, Cla. Sì, adesso sì, però ogni tanto manchi anche tu, capito? Ma cazzo, ma voi buoni un'antenna di Robogiorno in Cibaro BMR? Boh, siamo sempre qui intanto adesso. Non la un'antenna di Robogiorno BMR, ma... Se la fai, cosa vuoi fare un'antenna di BMR? Ah? 30 centimetri di... E prendi un elettro, col gas e ti la vai. Cosa ci vuole? Una brittella vivo. Nulla ci vuole a farla, nulla, capito? Non ci vuole niente. Prendi un elettro, mi fai la misura giusta dell'UHF, capito? La fai leggermente più alta, adesso non mi ricordo la misura, comunque se vuoi te la do, la fai leggermente più alta. Ecco, tenimi l'elettro, luci bene, pulito bene, un elettro mi da... da 2,25 di Ghisifini, lo lucidi bene con la tela e prendi un PL di quelli larghi, capito, di quelli non piccolini, di quelli bassi, di quelli alti, entri la punta dell'elettrodo che è fine a farla uscire dove saldi, ci metti una punta di stagno e vai l'antenna. E vabbè, Cla, fammelo un disegno, fai prima. Tu io? 70 centimetri lo stilo e il radialino sarà, mi sembra, 15 o 20. Tu ne vuoi un radialino, Manuel? Senza radialino, vuoi già radialino? Già radialino. Senza radialino, un'antenna con l'attacco PL, senza radialino. E allora sarà 70 centimetri di stilo. Allora mi giuro a vedere, esci a vedere, hai sì? Se no prendiamo la gattarella, la bomba in capo, buon lo stilo della gattarella. Aspetta che l'elettro in acciaio ce l'avevo già, è fatta a buco. Aspetta un attimo che la sto misurando. Che bello. Dovrebbe essere 65-70 di stilo. Questa è 53 centimetri. È più piccola, Cosa ne va? Che è da macchina, lo stesso. È uno stilo unico, in acciaio inossidabile. Base magnetica ne hai, Lu? No. Base magnetica, la mia c'è la Lucca. Ci vuole la base magnetica, attacco PL. Ci avviti l'antenna e tu sei a posto. C'ho l'antenna in terrazzo, quella c'è l'attacco PL. Ma di che cosa? Della 27? Certo. Cazzo, ne sa che l'antenna 27 va a punirsi allo BMR. Una base magnetica devi procurarti. Mettere una piastra, attaccare la base magnetica e metterci e avvitarci l'antenna. Adesso vediamo, ora fa l'inverno. Procurati una base magnetica, guarda se te la va, Luca, se ce l'ha. Capito? L'antenna non ce n'è problema. Se no anche una staffa, va bene anche una staffa. Se c'ha quelle ringhiere va bene anche una staffa. Ma l'antenna e andare a avvitare. La devi avvitare l'antenna. Ci vuole la base magnetica, attacco PL. Ah, la tua è quella, sì sì, ho capito. No, io questa qua l'ho fatta con la staffa direttamente. No, questa è attacco PL. Capito. Attacco PL. PL. È uno stilo in acciaio inossidabile, mi una lettera, cosa. Lucio, che bella. Uno stilo. Capito? Fatta io. E poi quella che mi hai dato tu, ti ricordi? Quella l'ho smontata. Ho usato solo lo stilo e ho fatto lo stesso lavoro, a volte mando la foto ed è attaccata fuori su una piastra lo stesso con l'attacco a PL, però non base magnetica ma quella grondina della macchina. Ehi, ho capito, ma riceve adesso a me? Sì che riceve, adesso riceve, ho usato solo lo stilo, capito? Solo lo stilo, il resto l'ho tutto tolto e ho fatto così, ho entrato lo stilo nel PL, l'ho saldato, capito, la misura è la sua e riceve il link nazionale, quindi riceve, tieni conto che nella finestra all'interno del coso del giardino, quindi aspetta, ti faccio la foto poi guarda quell'attacco com'è, la piastra e tutto quello, l'attacco quello che stava cercando Gianni, ma a me se mi serve, se no gli avrei dato. Aspetta che suonano. Te l'ho mandata, eh? Ma vabbè. Manoè. Sì, Manoè. Manoè. Ti sento. Come? Chi è? E io sono Claudio. Ciao. No, sto chiamando Bacchigio perché deve fare un coso, non lo so. Ciao Otto, e allora era lui che ti ha risposto, che ha detto ti sento. Ah, così è, boh? Ma che intendo io, facevo il volume chiuso. Sì, no, mi ero con Manuele ed è andato a aprire la porta, boh. E sono qua. Andiamo. Allora, ma come mai avete un poco di freddo? Era un caldo primo pomeriggio, ma in ora male che... Ne abbiamo per una settimana ancora. Il tempo così? Ma che se ne vada questo caldo a mezzo ai piedi? Che inizi l'inverno, che... Il truppolista inizia l'inverno, eh. Hai che andare 21 a iniziare l'autunno. Sì, vabbè, ma può fare, vedi, serate così, adesso si sta bene. C'è un bel venticello fresco, ma avere un vento caldo, un paio d'ore va allucinante. Perlomeno qua nella zona alta, boh. Sì, perché è un po' di scirocco, Ciao, mi ascolti? Sì, che ti ascolto, signor Bacchi. Buonasera anche a Claudio. No, ho fatto una riduzione. Riduzione di che cosa? Del PL? Ho fatto la riduzione dal capo RG 8 al 58. Bravo! Sei andato dove? Mi stai arrivando abbastanza bene. Ma chi? Signora Claudio, buonasera, avanti, mi ascolti? Ehi, ti ascolto. Tu immaginati che prima eri segnale 1, adesso sì, segnale 9. Quante... giomai mi arrivi quante... tore. Sto usando un giocattolo io però come radio. È un giocattolo. Solo che ho fatto una modifica al cavo, era quello RG8, era troppo rigido. Come lo attaccavo si portava via il baracchino appresso, la base all'asso. Allora l'ho tagliato, gli ho messo lo spessore RG58, soldato, come ho sentito da un radioamatore. Perfetto, sì, è troppo grosso per queste frequenze quel cavo, va bene quello fine. Ottimo Bacchi, stai arrivando veramente molto molto bene. Questa è la... Cosa hai detto, questa? È come l'antenna che mi ha dato mio cugino. Bianca, sarà 1,50 d'altezza con tre radialini. Sì. Quella è una Daimo, una X50, vanno benissimo, quelle antenne ci vogliono. Per queste frequenze ci vogliono quelle antenne. Sì, mi ha dato lui, me l'ha regalata, diciamo così, imbustata e tutto. Sì, ottima, anch'io ho quella per le V e per le U, sono le migliori, per le U soprattutto, perché più corta è meglio va. Per le V c'ho quella più grande, capito? Sì, bisogna allungare. Un bel segnale, caspita, hai un segnale meno di Tore 9-10, tu sei 9 abbondante, vai To. Sì, a me arrivi a fondo scala, arrivi, solo che non anda di più. Andiamo, catta. Ettore, chietta, bobo. Se non andano, boo. Cioè, Ettore non mi intende a me. Boo, andemmo ve, andemmo. Se non ti intendi io, non ti intende nessuno, Chietta. Vero, Cla? Sì, arriva qua, Luca, e non arrivi da te. Arrivi, arrivi, Lucari, arrivi. E sapete da chi c'è una geniale che va, visciuga. Tore, mi hai tu una casarella da brisciarmi con... Mi dicevi che una briga in alluminio, rotonda, che devo fare un travaglio, allora brisciarmi là. Non avete che di busso da? La casarella non virai. Se fammi la casarella, una avete che di busso da? Alluminio. Se la vuoi d'alluminio te la do d'alluminio, se la vuoi in ferro te la do in ferro. Ma mi serve la casarella, puro. Ma va, vuoi troppo. Tu sai se fa me. Tu cosa ne dai, la vesti che ha la bicicletta? Tutti e due posso da. Io devo c'ho la bicicletta, vero? Oh, ma trova chi? Mi, ma trova chi ci puoi domandare? Ma chi ci va tutto, attrezzatura edile, vero Bacchi? Sicuro che sì, Claudio. Sicuro che sì, è già lo grido. Quanti anni ne hai fatto il proprio Camuru? 45 anni. E andate le bai, andate da Iana, ragazzi. Vecchi tempi. Claudio, lo so, tutto aumentato. Cosa, ma chi? Questo, come radio, ho aumentato o diminuito? Ma vai bene, ottimo segnale, ottima radio, Bacchi, veramente, molto, molto forte, sì. Rispetto a prima, molto, molto più forte. Ho cambiato antenna adesso, adesso dalla verticale sono andata a una mini antenna. Va bene, un po' più bassa rimane, più bassa, si è sceso da 9,5 a 7,8, però va bene anche questa, mentre l'altra è molto meglio, Sì, l'altra è più... Chi c'ha lei? Cosa hai detto? Cosa hai detto, Bacchi? Cosa hai detto? Boh, ha serrato prima. Bacchi, devi schiacciare bene il microfono. Claudio, mi senti? Sì, ya. Sto usando gli auricolari. Perfetto, vai benissimo. Oh, ho passato un poco fa, come ha acceso Marina? La radiolina, non vi sentivo, Che la radiolina che mi stava disturbando, può essere? Può essere, sì. Bubu, andiamo bene, andiamo. C'è una radio da 13, per forza. Cinesi, cinesi. Cosa hai detto, Bacchi? 13, 14 vuole la radio. Vedi, in questa antenna c'ho 2,16 stazionari, invece in quella di prima c'avevo 1,1. Ma questo è ben forte. Quanto c'hai qua di stazionari? 2,14. La madonna, cos'è? C'è la antenna in verticale, la bianca. Boh, mi sembra strano, perché quelle sono dirette. Io ce li ho, quel tipo di antenne lì, e stazionari non ne hanno. Ma deve essere il piede mollato, qualche cosa in antenna c'è. Capito? Qualcosa di antenna, perché 2,15, 2,14, 2,18, secondo come grido io. Troppe sono. Ascolta, ma c'hai l'adattatore quando attacchi il PL o il PL diretto? No, allora, adesso passa tramite il rosmetro. Se ne tolgo il rosmetro, forse diminuiscono. Ma il rosmetro è UHF. Sì, UV. Allora non c'è problema. No, perché queste antenne bianche così della Daimo hanno l'attacco N. Se tu metti l'adattatore da N a PL ti può creare problemi se non l'hai messo bene. L'ho dovuto cambiare due volte io, l'ho dovuto cambiare. Non c'è un paio d'anni quell'antenna sul tetto, non so come sia. Allora ci oscido nel connettore, capito? Ci oscido, bisogna scenderla e pulirla. Quelle va fatte manutenzione. Sì, anch'io l'ho scesa da poco e gliel'ho sostituito l'adattatore, perché c'è l'adattatore da N a PL, capito? E quelli una volta dopo tanto tempo si oscidano e ti creano problemi. Non fanno bene contatto, mi. Infatti, la prima volta che l'ho messa non andava. Allora l'ho tornata a riscendere e gli ho cambiato quella specie di PL. Gliel'ho cambiato, ne ho comprato un altro e gliel'ho messo. Adesso quest'anno gliel'ho tornata a mettere, a cambiare. Sì, quello è l'adattatore NPL 259. Capito? Perché quelle antenne lì le fanno col connettore N, però per poter saldare il PLN bisogna essere molto, molto, molto bravi e avere un saldatore fine è un casino. Io ci ho sempre rinunciato, preferisco metterci l'adattatore e forzo prima. Infatti anch'io ci ho messo l'adattatore. due voci di raggio busto. E vabbè. Cava rimane così. Perché mettere il PLN è un casino. Io ci ho provato mille volte, ci riesco a metterlo, ma a volte mi va in corto, a volte si staccava. Aggiunto, boh, allora il bongo l'UBL e il bongo l'adattatore. L'adattatore è buono però, quelli buoni, no? Certo, comprati da Fusaro, li avevo fatti arrivare da fuori. E ce l'ho un sacco di anni, non mi ha mai creato problemi l'antenna, ci ho sempre uno e uno di stazionari. E anch'io me li sono fatti arrivare, me ne è rimasto uno infatti, lì. Me ne tengo, ma del ricambio me ne tengo. Sì. Anch'io mi pare che ne ho un altro e lo tengo in ricambio. Quando ne scendo le direttive, che devo sostituire l'antenna, tolgo la 510, metto la 7000, capito? E le metto l'adattatore nuovo, glielo metto nuovo, vulcanizzato, bene, lo manco, dura, perché quello è tutto vulcanizzato all'interno, quindi già va bene. Avanti, Bacchi! Ehi, allora, uno di questi giorni si fa bel tempo che asciuga un po' le tegole, mette i piedi sopra e lascendo giù. Sì, Bacchi, perché sicuramente è da lì, c'ha l'adattatore, N è un adattatore, no, NPL, dove tu puoi avviti tipo barilotto, hai capito? Sono quelli lì. Se quello lì si oscilla, ti crea problemi di stazionarie, un bel. Può darsi anche sia così, non lo so, bisogna portarla giù, ma da me è facile portarla giù, è tutta telescopica, mollo i dadi e scende all'altezza d'uomo. A tua disposizione, Bacchi, se hai problemi, che hai bisogno di una mano, mi chiami, vengo e ti do una mano. È una cavolata da mettere, Claudio, cambiare l'antenne, sono tutte telescopiche, mollo il primo pallone, scende e si ferma. Poi via anche l'altra. Questione di 10 minuti, ci vuole più a smontarlo che a farlo. Vabbè, in ogni caso, se hai bisogno, sai dove trovarmi, non c'è problema. Lugarie. Ma se io impiatto l'antenna, quella che hai detto tu, ci va bene, ci pongo una brittella per ancorarla? Allora ce l'hai buoni, una brittella l'hai buoni, sì, la diri, beh, sta attento, non passare l'elastico. Per ancorarla, se me ne vada. E per ancorarla, le vai un ganso a una brittella e un ganso alla sua brittella e tiri, capito? Stai attento, non si sganci l'elastico della brittella e ti piglia a capo, ti va sul bombuglione. Io ti abbaccio da faletta, ma non piglia freddo. Esatto, pure vanno pigliati a capo, capito? Faccio così allora, Tore. Ehi, se no pigli un tubo. Da 3 metri, tipo un tubo da 3 metri, dentro una gallarella, con un calcestruzzo, e per impianti dentro, se non vuoi attaccare così. Posso fare così, ma è un po' di cemento in maggio, un po' di giodo in mezzo, ma fa attrito. Sì, un po' di ghiaino, poi buoni puro, saboni, mascelli, cinnai, giodi. Perché non piace l'ascelli, a chi tu non è ascelli? Ehi, non so più, ci mette le due, ma gli avviraggio. Ah, non è più bello io, no? Ma le tue? Anch'io non ne ho nulla. Niente pelo nelle ascelle. So, fatene viago. I simi viaggi non bello sta ascella. No, io me lo... Ragazzi, per un gannello. Ci vuoi a Manuele? Nada, vendi pelo. E ci pure la barrucca. Ah, ok, là sembra un cannello. A te sembra un cannello. La massa dell'aria. Cazzo, e ci vuoi a gara, cazzo. Tra te e Torino so che ci vuole, cazzo. Troppi ormoni, qua. No, ok, io passo la macchina, se dipende, dai, solo la lametta, tutta a zero. No, Hai visto, Manuel? Quella lì è quella base, quell'attacco, da attaccare a grondina, oppure dietro, nel cofano, senza fa buchi. Hai visto l'antenna? Ho eliminato quella parte là, lo stilo, proprio perché entrava dentro quel cosettino che c'era. L'ho tolto, l'ho entrato nel PL e l'ho saldato, come quando saldi il cavo. E l'ha già vedato la basetta, guarda che bellina è. Sì, è uscita bene veramente. queste pulsanti che funzionano. Sì, non funziona mentre chi sa chi il mattonino, però già si sente qualcosa, beh. Giusto per tenere il ricevitore in ascolto, mi capito? Ce l'ho sempre sull'inclinazionale, capito? Ed è lì nella finestra, hai visto? C'è una piastra in ferro, ma quanto è la basetta? 30 centimetri, quell'antenna, 20 centimetri. E va bene. Quella con l'attacco a centrotetto in macchina, quella esce bene adesso, con l'attacco a centrotetto, no base magnetica, no? Sì, va bene, ma chi sei, attore Marchisio? Ehi, ehi, dai, io vi lascio chiacchierare, visto che c'è la greffa, e vado a portare il cane intanto nel frattempo, ok? E poi già rientro subito, vai Tom. Sì, ok, ciao Cla, ci risentiamo. Anda bene, riprendi Bacchi. Sì, riprendo io, saluto Claudio, ciao Claudio, buona serata, buona questa greca col cane, a risentirci, ciao ciao. Avanti ancora, Emanuele. Ehi, ciao Cla, ci sentiamo più tardi, dai. E allora, signor Bacchisio, tutto a posto, c'è anche a Torre Squalo. A te Bacchi. C'è anche Torre Squalo, non c'è. Anda bene Veda. Avanti tu, riprenditela. Aspetta che c'è anche Luca. Luca! Mi senti tu? Sto provando il Vox. Perché ti sento, è forte pure. Stavo provando il Vox, dai. Già sta andando allora. Qui c'è Emanuele. Va Bacchi, Bacchi. Sì, anzi è conveniente. Aggiungati un po' in movimento questa cosa. Vai qua a terra, eccolo. Cosa stai succedendo? Il microfono, ce l'ho in casa. Sì, ce l'ho, sì, ce l'ho. Allora lo facendo. Lega mio compressore. Vai, Tore. Bello. Sono talmente minore di venire male a chi c'ha lì, buru. Dipende che microfono c'ha. Uno di quei microfoni piccolini, E non vedi voi che viene male a chi c'ha. Non si può cambiare un microfono più male. No, non si può cambiare, è quello lì devi tenere. Andare, ma comunque adesso Bacchisio già sta uscendo bene, dai. Cazzo, fondo la scala qua, sta uscendo più che bene. Con i piedi. Sta uscendo bene Bacchisio, sempre quella lì, No, adesso sto usando la antenna bianca, in verticale. Quella piccolina te la posso sentire fra un secondo. Ma cos'è? Non esci la vegida. Avanti Pipipo, va? Ole! Quella Bacchia, a me stai arrivando forte. Mi arriva forte lo stesso. Arrivi benissimo, mi arrivi. Adesso sto andando con l'antenna bianca in verticale. Adesso metto l'antennino. Via, andiamo. Bu. Cosa va Emanuele? Io nulla. Allora chi dici andiamo a muovere? Non ero io come. Non eri tu. E allora che d'altro, Luca, Io me la vendevo la radio 100 euro, otto. Ma un pezzo te ne busso da. Sì, cos'è chi canto va? Un pezzo mi porta. Vabbè, dammi la bassi frontale, decine di frequenze. A me sto mi dà un frontalino. Cosa? Emanuele, a mai da va, come ti sono calenti? 9,20, 9,20 con l'altra fonda scala. Però va bene, La modulazione è pulita. Non ci porta quella vecchina ansura. Cosa? Ho messo in quella vecchina la radio. Ah no, va bene, va benissimo. Va bene anche l'antennino. Questo è l'antennino. Ma quello con la mia è, Bacchi. Quello è come il tuo. No, già va bene, dai. Dole, riprenditela. Luca è che se la prende. Ma chi è? Luca Flipper, non intendo, mamma. Non mi arrivi bannuta stasera. Luca del Monte. Luca del Monte. Cosa faccio di bigliaio? Cosa lo so, Gu? Vabbè, da te. Cosa ne so, Gu, io? Ma cotto si stasera? Luca del Monte, come ci arriva che mi sopra? Tutto a fondo scala, sì, qua. Non sono al monte, però sono qua alla Tadolce. Qua, Santa Maria di Pisa, là. Sì, ho capito. E allora poi forse andiamo a fondo scala, siamo a 100 metri. Sì, il più forte di tutti, anche il più forte di Tore. sì, io l'ho messo sotto l'accetto le radio. Vabbè, pure tu lei a fondo scala, però sembri più forte il tubo. Ma non è... Sì, ti ho detto Luca. Sì, ci abbiamo già zitto. No, lasciate un peperoncino, lasciate. Dai, dai, andiamo, andiamo. Che il peperoncino, beh. Vabbè, dai, è una battenza, cazzo. Boh, io ve l'ho detto, vuoi fare, non vuoi fare affari, mi davo la bicicletta, le mancava la roba di Davido. Ma certo. Ma cosa mi vuoi dare una bicicletta che ando in viaggio? Vabbè, ce ne bisogna un'altra. Non faccio lungo, se la devo qui un coso, se la devo qui a da bui. Cazzo, a me mi si via chissà, del radio, boh, e non me la vuoi dare, boh. Non te ne fai nulla di quella lì. No, è paroso. Bello. Tanto io sono andato a Reghi appresso, mi metto a Dio, tutti i noghi d'assimi. Cosa vuoi, a Reghi appresso? A Giudizio, che non te la Reghi appresso, tutti i noghi d'assimi. Tutto qua lascio. Allora, la gente è convinta, io, e poi, tutti i noghi d'assi, pure di là, tutto. A meno che non mettere i buoni di Trento. Ragascia? Se vuoi mettere la gascia, si rimane lo vemmo. Scusa, come imprenditi di sillare? Andiamo, vai, andiamo. Ah, dai, già mi sono goduto, non ti preoccupare. Ma non riba, vai. Ci sei in deviraggio? Se vuoi, ma non riba, vai a giocare pure a me. Preoccupata, va. Io batte, non sai cosa ti perdi. Ciao, Mary. È dormito, Gio Maria. Pensando a te, tu sai che è un mondo zè. È dormito, è sempre Gio Maria. Allora, oggi non ci fa compagnia. Sì, se la vai dentro giro dalle visore. Veniamo a farmi che faccio. Nulla, Sei andato a messa? Ma che caso? 7:30. A frappè, a magna. No, tanto faccio un bel panino, hamburger, insalata, formaggio, mozzarella, gamberoni, olive, pezzi di pollo, gorgonzola, quattro romaconi, ketchup, salsa rosa, un bel panino. Quattro romaconi. No, i romaconi sono ancora non sono fatti. C'è anche qui, il romacone, ma che grosse. A giovedì, vostra. Che magna del giocatore rossa, oh yeah, mi dai pace, tu dammi la cusineggio. Allora, il giocatore rossa, aglio, prezzemolo e peperoncino. Ah, Marino che fine ha fatto, Bacchi? Lo senti, Emanuele? Ha giudito, Marino che fine ha fatto? Se non sai tu che era contigo, io non so, guarda, lasciami così fuggita e buco. E scendi nel capo con la bomba asettica. Io ho aggiunto la comparazione a Luva, non lo comprendi. Ah, ha detto che il motore va, gira bene, però secondo me c'ha qualcosa dentro al tubo che blocca. Che c'è nel tubo? È schiacciato? Sicuramente, perché non ce la farà tirare. È arrivato il capo nuovo, dice che era il capo, è arrivato il capo nuovo. Non so se l'ha cambiato questo cavo. Boh, non lo so, avete tornato a guardare a vedere cosa c'ha, che guardava il tubo. Sicuramente sarà intasato, sarà schiacciato, che cosa va là. Perché il coso funziona bene, il motore, il motorino. E il tubo che mi sembra che sarà intasato, ci sarà qualcosa dentro, boh. Allora ci vuoi. E via, l'autosfugo ce la fa a spingere. Boh, non lo so, Bacchi, avete che tornare a guardare, che a rimani di seguire, anzi, a rimani la, a rimani a sedere, la tutta la di controllare il carbon passetic. Anda, vai, anda. No, basta infilarci un'altra fila nel tubo, oppure pigliare poi di uno volante, per provare, un tubo volante. La sera fa il problema ci hanno abbassato tutto il blocco della pompa. Ma sai cosa è? Il sapone, i detersivi fanno a pietra, diventano una pietra. Si è cominciato a fare un bozzolo piccolino, allora è diventato un bozzolo grande, e il passaggio si è arrato. Sicuramente si è fatto il tappo, si è fatto una specie di tappo dentro a quel tubo lì. Sicuro sicuro, perché dice che il motore gira bene, perché se gira bene il motore sicuro sicuro è la pompa che è intasata. Dove va quanti chilometri di tubo c'ha? E quello non lo so, quanti chilometri di tubo non lo so quanto là. Il tubo ci avrà 5-6 metri, anche 10 metri di tubo, a chi mi ha detto in dire furenti, per la fossa io bisogna una ventina di metri. Una ventina di metri, minimo sì, minimo 20-30 metri di tubo dovrebbe avere. Conviene metterne uno volante e provare. Se funziona, piglia di fare il picco e fatelo canali. Vai to! E ne andemmo, dimmi ne andemmo. A Lucca di lui andammi. Buonasera a me. Buonasera anche a lì. Ben entrato. Ciao Baxi, e c'è Manuele Ciattore. E vai, vai. E metti. Allora, a me non mi saluti, eh? E Bacchi, come mi ascolti adesso? Tonino Lambretta, non mi saluti a me. Eh? Tonino Lambretta, non mi saluti. Cacci, tu... Con questo qualcosa c'ho un microfono così feo, cacci. Cacci. Dove? Dimmi. Ho usato un altro apparato, che cavolo... La, pare che faccio un altro parlante di gomma, per calendare. Ma vuoi pare che mi ha portato in bocca? Pensa un po'... Sono andato in bocca. Otto, tu cosa vai? Arriva, vai. Quasi mi mangiano il microfono, quasi. Io te l'ho sento chiaro chiaro, pulito. Appunto, c'ho una cosa seria io. Io sono chiamato Tonino. Buonasera Tonino, ben ascoltato. Avanti. Toni. Chi c'ho? Tonino. Ti ho salutato poco fa. A me, te no, no. A metà mi sento io a voi. O è con questo apparato che va in tutta la fanculo e si sta andando. Bel portatile. Ma non è che schiacci, schiacci, ti sento a metà. Sei a tratti. Attimo il telefono. Tu lo comprendi, to? A tratti lo comprendo. Ah, detto io, comprendo a tratti. Ma se dici che sei riuscendito a tratti. Non ne comprendo uno da stasera, no. Ma chi? Emanuele, dimmi. Tu a tratti mi ascolti. No, pulito chiaro, cosa a tratti, che l'ha detto? Cazzo, tu lo dici che sei riuscendo a tratti, dopo che sei a radio. No, tu quando parli, prima parli, poi schiacci, era quella mezza parola, te la mangi. Poi quando schiaccio, a me mi sentono bene, sia a te che Bacchisio, non mi hanno mai detto che riesco a tratti. Torino, mi senti? Luca, deve essere che non ti senti a te. Ma che so, due? Ma siamo un patato di Alecci. Cazzo di aro, se l'avevo chiamato al telefono, mi ero richiamato e ho risposto, e ho avuto abbassare il volume. Mi senti, Toni? Yalla. Ma mi senti, sì, non ti sento a tratti, Toni? Ma, boh, io non lo sento. Ti sento, Luca sì, boh. Mi senti uno, due, fa. Mi sa che mi avevi bruciato, va. Allora, sono in Tennessee. Tu mi senti a me? Sentilo. Il fisso lo sento, però la mia no. Devi schiacciare e aspettare qualche secondo e parlare, perché se no ti mangi anche tu le parole. Scappa, così. Uno, due, tre. Ciao, Luca. Mi arrivi a fondo scala, Tony. Mi arrivi a fondo scala. Tu mi senti bene, sì? Scappa, abbastanza bene. Ti ho messo un'antenna un pochettino in alto adesso. Andava, dai, mi arrivi benissimo, proprio tutto a fondo scala. Avanti, Tore. E dove vuoi andare? Già sono qua. Già sono qua io, a Vuglia. Signor Bacchi, se la riprenda. Sì, me la riprendo e me ne sto andando. Manda in muove. Manuè!